Allora parlo con la Zanzara, Radio 24. Ciao, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Figlia della Bastiglia, sienta a me. Pamma fa dormir, pamma fa scorda il mio dolce amor. Figlia della Bastiglia. Ora Casaleggio è in analisi per capire perché si è messo il cappellino e poi vedremo che cosa fare tutti insieme. Ma dai, state tranquilli, vincono loro. Ma è meraviglioso lo stesso. Intanto io mi prendo un Malox. Non si sa mai. Casa! Casaleggio! C'è il Malox anche per te. Via qua. Ma sta canna è una sarda. Doce doce, ma guarda se struscia miagola e fa. Sienta me vatta cucca. Parenzo da Parigi gode per il tonfo del 5 Stelle. Grillo prende il Malox, ma Grillo se la prende anche con gli italiani alla fine, perché il signor Grillo accetta sì la sconfitta, non fa il pazzo, eccetera eccetera, però dice che sono i pensionati che non vogliono cambiare. Quest'Italia è formata da generazioni di pensionati che forse non hanno voglia di cambiare. Insomma, vi ricordate quando la sinistra italiana se la prendeva, vinceva Berlusconi, loro se la prendevano con tutto tranne che con se stessi, se la prendevano con le televisioni, con conflitto di interessi, insomma la colpa è sempre degli altri. In questo caso Grillo dice, beh, ma sono gli italiani che non hanno voglia di cambiare, ci sono generazioni di pensionati che insomma preferiscono inciuciare. Questo vuole dire, no? Adesso ci state prendendo in giro, vi capisco, mettete proprio il coltello nella piaga, abbiamo perso, non è una sconfitta, siamo andati oltre la sconfitta, vinciamo noi, adesso vinciamo poi, sì, vinciamo poi, abbiamo il tempo dalla nostra, forse è ancora presto, forse questa è Italia formata ancora da generazioni di pensionati che forse non hanno voglia di cambiare, di pensare un po' ai loro nipoti, ai loro figli. Preferiscono stare così. Insomma, noi siamo noi, gli altri sono la conservazione. Noi siamo il sol dell'avvenire, gli altri sono la conservazione. Parenzo, preparati ad andare a Pontida tu, eh. Preparati ad andare a Pontida. Lo so. Io ho perso la scommessa, lo so. Aspetta, a proposito di Grillo. Però possiamo fare un saluto a un sindaco? Aspetta un attimo. Al signor sindaco di Nusco. Al signor De Mita che ha 86 anni ha stravinto a Nusco. Aspetta un attimo, fermo. Beh, che è però la fotografia di un'Italia immobile, questa sì, di un'Italia in carta pecorita, diciamo la verità. Però fermi tutti. Perché in realtà Grillo cosa aveva detto andando di successo in successo? Che insomma, se perdiamo mi ritiro. E allora uno si può porre legittimamente la domanda: ma insomma, si deve ritirare o non si deve ritirare? Quando si vuole, quando si può, prima possibile, andiamo al voto. Voglio una prova per capire come mai, se gli italiani pretendono e votano di nuovo un governo così, allora noi non siamo adatti a questo paese. Io personalmente, se perdiamo le elezioni, non ho assolutamente più voglia di continuare. Parenzo? Che è successo? Che è? Cos'è? Che è successo? Abbiamo vinto, porca puttana. Ma come avete vinto? Avete perso? Ma abbiamo vinto, ma sono qui con Casaleggio in ufficio. Ma che cazzo dici? Ma soltanto la radio disinformata di questa Confindustria che è morta può dire che abbiamo perso. Abbiamo ma che vinto. C'entra? Ma come avete vinto? Ma abbiamo che votato in rete. Ma no, ma il voto non ma è che. Ma non c'è, è morte, le urne sono morte. Ma come sono morte? Ma uno cosa fa nelle urne con quattro persone al seggio, col presidente, un cretino ogni volta? Si uccidono gli alberi, si ammazzano per fare delle schede che non servono a nulla. Ho capito, fino adesso funziona così. La gente... Ma cos'è sto rumore? Ha votato nella rete, nella rete. Ma non ha votato nella rete, ha votato nelle urne. Abbiamo fatto il 44% su internet. Ma votogrillo.it, andate sul sito, avete i risultati, andiamo al Quirinale. Napolitano a casa. Ma no, avete perso, Grillo, avete perso. Ma chi te l'ha detto? Ma dillo a Squiz, ma che propaganda è? Stiamo battendo i dati sul computer, sull'iPad, c'è tutto. Ma non è possibile, i voti di... No, battegrillo.it, 44%. Ma si vota nelle urne, non si vota ma su... Ma non ci sono le urne, sono morte da voi. In tutto il mondo lo fanno, si vota da casa. Ma non è vero, non ma si vota... Ma la gente ha votato da casa. Ma non ha votato da casa la ma gente. Ma soltanto tu, se ci sono i voti, vai sul sito. Sul sito www.battegrillo.it c'è scritto. 40% ha vinto. È morto, Lebettino, è morto. Solo voi continuate a fare questo, la Confindustria. Ma qua è solo 24 ore, ma vaffanculo. Abbiamo vinto. Grillo diceva pure, in Abruzzo abbiamo una candidata fantastica che ce la potrebbe fare, che ce la potrebbe fare. Adesso non comincia ad attaccarci, noi siamo autorizzati a prendere per il culo chiunque. Dunque, quando uno perde un po' lo pigliamo per il culo, che vogliamo fare? Questo diceva Beppe Grillo prima delle elezioni, che in Abruzzo potevano vincere, dai. Senta, ma conquisterete anche la presidenza di una delle due regioni? Piemonte, Abruzzo. Quello ci conto, quello sarebbe una meraviglia. Quello ci conto perché abbiamo dei candidati, specialmente in Abruzzo, e in Abruzzo è una signora fantastica. Quindi secondo lei in Abruzzo siete pronti a vincere? Secondo me abbiamo delle buone probabilità, anche in Piemonte, con Davide Buono. Caro Matteino, anche io sono fiorentino e quando viaggio... È inutile dire che in Abruzzo stanno al 15% col candidato, credo, il primo spoglio, e in Piemonte sono terzi con Davide Bono, Vabbè, così, tanto per dire. Beh, si potrebbe dire ancora che il cantante lì, Moro, sul palco, che ha detto che l'Italia schifa Napolitano, no? Beh, sì. Si potrebbe dire che l'Italia schifa Grillo, questo si potrebbe dire. Gli italiani hanno un po' schifato Grillo perché si sono spaventati, eccetera, eccetera. Io toglierei un po'. Provinciali che sfruttasti per creare questa immagine di te, immacolata, di demagogica facciata. Lucci Renzi oggi, già un cult. Rottamatore. Io. Poi facciamo un giro dopo, facciamo due giri se siete d'accordo. Ciao Matteuccio, ciao Serico. Senti, ti ha chiamato Fonzie e Betino e ti ha mandato a fanculo tutti i giorni, no? Sei in adesso... stampa di Palazzo Chigi. Ah, scusa, vabbè, dai, no, ha detto lui le parolacce. Ah, vabbè. Però, allora, adesso, mi raccomando, non essere vendicativo. Gli vuoi di una parola bella a Beppuccio nostro dopo sta mazzata tra capo e collo che ha preso? Una parolina bella, ma dici per Beppuccio nostro. Vai. Andrew Prati, Bloomberg. Passare da Leiene a Bloomberg con questa differenza. E giravi allegro in quella ruota e la fortuna sorrideva solo a quelli come te. Raccomandati. Questa è la Zanzara. Di solito le puntate, amici miei, amici della radio, popolo della radio, le puntate quando qua alla fine di un'elezione sono una rottura di palle pazzesca. Dunque cercate di ravvivarle, perché già sappiamo tutto: che Renzi ha trionfato, che Grillo ha perso, flop pazzesco, che Berlusconi se la passa male. Beh, Grillo, lei ha perso, non rompe i coglioni, su. Perso? Avete perso? Ma vai sul sito, ma sul sito cosa? Ma vai, dai, su. È tutto falso. A proposito di Berlusconi, sentite che dice la Santanchè, che adesso è pronta. Santanchè, dialogo con gli amici di NCD. Questa è da mandare, da far sentire. Con gli amici, ha detto. Ma come con gli amici di NCD? Vi siete presi a parolacce fino a due secondi fa. Hai detto che Alfano è un pezzo di M, di merda. Hai detto le peggio cose di Alfano, Santanchè. E agli amici dell'NCT dico che siccome loro credevano di essere il nuovo centrodestra, che adesso forse... Mi auguro che da domani si possa mettersi insieme a dialogare. Mussolini è eletta, poi faremo il conto dei trombati, i promossi, gli exploit, quelli che ce l'hanno fatta. Marione nostro ce l'ha fatta, Parenzo, come sono contento, Marione ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta veramente? Ma ce l'ha fatta, basta che Salvini rinuncia al centro e ce l'ha fatta. Mandiamo un Marione veloce, dai, un Marione veloce per scaldare. Per colpa nostra. Per colpa nostra ce l'ha fatta, sì, per colpa nostra. Abbiamo la responsabilità dell'elezione di Borghezio a Strasburgo. Abbiamo rimandato Borghezio all'Europarlamento. Bisogna dire che... Salvini deve rinunciare a essere eletto al centro. A Matteo. Matteo, quell'altro, quello della Lega, non facciamo scherzi, eh. Allora, arrivata l'ora, arriveremo in tanti questa volta e saremo determinanti. Avremo un gruppo fortissimo, gente coi coglioni al Parlamento Europeo, non le mezze seghe che ci hanno venduti all'Europa, hanno svenduto la nostra sovranità monetaria, il nostro diritto a farci noi il nostro bilancio. Non contiamo più un cazzo, altro che nazione, siamo trattati come delle merde, guardate come trattano i nostri malò, e questo governo non fa un cazzo. Ma guardate che lo fanno anche in Germania, eh. La Zanzara. Questo movimento si allargherà qui, non vinciamo, io ve lo dico subito, noi non vinciamo stavolta, no, noi stravinciamo, è diverso, molto diverso, a noi non ci interessa prendere un punto di più o due punti di più. Allora, la domanda vera, caro Parenzo, è questa. La domanda vera è: può resistere un movimento come quello di Grillo, che deve andare per forza, per sua costituzione, per come è fatto Grillo, per come è fatto Casaleggio, di vittoria in vittoria? Cioè, è capace di sopportare, popolo della radio, datemi una risposta anche voi, è capace di sopportare una sconfitta, sì o no? Ma abbiamo qui l'oracolo che ce lo dirà. Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, buonasera. Eccomi, buonasera, come va? Eccoci, quanto tempo! Che cos'è quella polverina che ho visto in una foto online? Che cos'è? È un tiro di cocaina che ho fatto lì al Foglio, nel mio ufficio, per festeggiare. Grillo ha preso il Malox, io ho fatto un bel tiro di cocaina, ma possente. Ma veramente? Ma certo, veramente, è per finta. Cioè, ti sei fatto una botta di coca? Ti pare che metto lo zucchero al posto della cocaina? Mi hanno subito accusato di aver imbrogliato. Mi hanno inforcato gli occhiali neri e ho fatto un tiro con un 100 euro arrotolato. Cioè, hai goduto, diciamo la verità, prima hai goduto come un pazzo e poi ti sei fatto una botta di coca, diciamo. Bravo, per riprendermi. Ma veramente hai goduto per la sconfitta di Grillo? Cioè, come ma un... no, ma non me ne frega niente, se Grillo avesse preso il 35% e Renzi il 31% era uguale. Ma no, uguale no. Elezioni europee uguali, identiche. Ma no, Giuliano, no, non era uguale. Il genio di queste elezioni è Nigel Farage, quello inglese. Ah, quello sì, quello è un genio. Gli inglesi sono eccentrici, allora lui ha preso il 30%, ha fatto diventare il partito di governo il terzo partito, sì. E lui è arrivato primissimo, sì. E subito ha detto attraverso i suoi portavoce: guardate che alle prossime elezioni prenderemo un piccolissimo pugno di deputati a Westminster. Perché le politiche sono una cosa, le europee sono un'altra. Su, sì, però in Italia non è così, lo sai, questo qua era una specie di referendum sul governo Renzi, diciamo, se Grillo sarebbero andati al Quirinale avrebbero fatto l'inferno, dai. No, semplicemente lì c'era una questione, è arrivato uno bullo che voleva picchiare un uomo in età veneranda come Berlusconi da una parte, e poi voleva abusare di un bambino, il Renzi, sì. E allora ha fatto impallidire tutti e si è aggiogato tutto il carro dei media, che sono gli opportunisti straccioni, in particolare delle televisioni, che hanno cominciato a dire Grillo, Grillo, Grillo. Alla fine hanno impressionato tutti, devo dire, un pochino negli ultimi 2-3 giorni anche me, quelle piazze. Bastava vedere Piazza del Popolo mezza vuota e si capiva che Renzi avrebbe preso il 40%. Cioè, no, le piazze piene, scusa, le piazze piene hanno sempre portato male. Ah, tu dici hanno portato male. Ma ti è venuta paura pure a te di Grillo alla fine, gli ultimi giorni? A un certo punto ho avuto un momento di paura e in redazione ho detto: mannaggia, ma qui non è che va a finire male. E invece magari ti portavano via. Magari... Ma se avesse preso il 30 sarebbe stato lo stesso a rifletterci. Ma che dai. Ma sì, uguale, identico. Cosa conta? Non conta nulla. C'è un Parlamento, c'è un governo. Cioè, sì, beh, certo, Renzi avrebbe lavorato con più difficoltà, l'Italia è un paese da... Ma in Italia sarebbe stato un casino, dai, su, sarebbe stato... Ma no, io sono per le soluzioni all'inglese, in Inghilterra pensi che succeda qualcosa? No, vanno avanti normalmente, fra un anno si vota. Ma non stiamo in Inghilterra, ma in Inghilterra, ma in Inghilterra è una cosa, l'Italia è un'altra. Ma non sai, è vero, ma non è vero. C'è comunque io e Parenzo Farage l'abbiamo conosciuto bene. Una volta è venuto degli studi di Strasburgo dove c'era la Zanzara e abbiamo fatto uno spettacolo pazzesco. È uno... Ma no, Farage è di una simpatia unica. E poi è uno che beve. Io lo diedi a Radio Londra quando fece quel numero Monti terribile, perché insomma a me Monti piaceva, ma anche Farage guarda, è fortissimo, beve come un pazzo. Cioè, dimmi la tua qual è stata la tua reazione quando hai visto 20 punti di distanza, cioè quando era chiaro che aveva perso Grillo, qual è stata la tua prima reazione, Giuliano, dimmela subito. Grandissima e quieta e serena soddisfazione, ero solo preoccupato per quelli che lo hanno votato, poveracci, perché poi lui non è un problema, lui è un attore annoiato, io lo dico sempre, che ha deciso di reagire a così a una vita passata a vedere il botteghino, quindi annoiato da morire, e ha deciso di reagire facendo politica e conquistando il mondo. E poi è finito in psicanalisi insieme con come era normale. Come in psicanalisi? La gente che lo vota è pazzesca! Cioè è pazzesca. Perché sono dei poveracci, dici? Ma perché è una cosa ridicola votare Grillo, è una cosa indegna dello status di cittadino. Ma sono 5 milioni, ma un sacco di gente ha votato Grillo, milioni di persone. Ma cosa me ne frega, ma che vuol dire? Ma che sono come il barone Spagna che nel 73 diceva non ho nessuna difficoltà a reputare imbecilli quelli che hanno votato per il Movimento Sociale Italiano. E per cui aristocratici dell'elite, dobbiamo essere chiari, se il popolo si comporta da pazzo bisogna dirglielo. Popolo, sei pazzo, sei scemo, sei demente. Dunque, non chi vota Grillo? Chi ha votato Grillo è un imbecille. Peggio. Sì, assolutamente. Ma è una cosa pazzesca. Ma abbiamo vinto. Ma che dici Grillo? Che dici? Ma abbiamo vinto, ma siete ancora lì con Ferrara. Ma cosa dice? La gente ha votato nella rete, porca puttana, con l'eolico. Ma nella rete non si vota, Grillo. Ma si vota nella rete, ma non capite un cazzo, ma sono qui con Casaleggio, con il computer. La gente da casa vota. Ma chi cazzo va al seggio? Cos'è sta cosa? Ma le elezioni, si va al seggio? Ma quali elezioni? Non ma esiste. Ci sono state le elezioni, lei ma ha perso. Ma dici tu, Squinzi, il Sole 24 Ore, ma che cazzo è? Ma vabbè. Cos'è? Scusa, ma Casaleggio con quella sua faccia, Giuliano, ha influito in qualche modo? Cioè con le sue parole, con quelle sue cose? Né? Cioè tu lo capisci Casaleggio quando parla o no? No, ma figurati se capisco Casaleggio. Io non capisco quelli che votano Casaleggio e Grillo, che è una cosa pazzesca. Un partito ridicolo, folle, un po' fascista, un po' squadrista. Hanno fatto la marcia sul Rapallo. Sì. Questo hanno fatto. Come invece che la marcia su Roma hanno fatto la marcia sul Rapallo, cioè questo animale predatorio che tirava colpi in bassi terribili, vomitava insulti eccetera, si è fermato a Rapallo sulla strada di Roma. Pensa un po'. Senti, ma Berlusconi adesso che deve fare? Appoggiare Renzi? Ma certo, Berlusconi deve appoggiare Renzi, deve ricostruire un'identità e un profilo di coalizione. Vabbè. Su che cosa lo può ricostruire? Sulla politica che ha fatto giustamente in quest'ultimo periodo, cioè che è una politica di cambiamento del paese, delle sue istituzioni. Cioè deve ma non può, scusa, al governo ci dovrebbe cercare di entrare al governo con Renzi o no? No, è indifferente. Ma no, questo mi sembra più difficile, più complicato, più neanche auspicabile. Però non lo so, questo poi valuteranno loro. Tanto hanno già convocato un consiglio di presidenza, una direzione. Vabbè, ma quello non conta un cazzo. No, sicuramente sarà rinviata. quello non conta nulla, però è una debacle pazzesca, pure per Forza Italia, bisogna ammettere, ridotta no, così. No. Ma Giuliano, no, come no? No, scusami, chiunque... No, prima di tutto Berlusconi, diciamo, era praticamente in carcere. Allora, incarcerato che fa una campagna elettorale... alternandosi fra le cure di Cesano Boscone e i comizi, ovviamente perde credibilità. Ma l'ha fatta benissimo la campagna elettorale, comizi, cose, per lui è stato ma po'. No, ma non c'entra, ma è lo status che lo tu status porti psicologico, davanti agli elettori. Psicologico. E lo status psicologico non è quello di un candidato in tutte le circoscrizioni che dice adesso vi faccio vedere io, è lo status di uno acciaccato da una sentenza. Per cui non è una debacle. No, ma scusami, se tu fai il conto, voglio dire, allora hanno votato Berlusconi e Fitto poi in grande misura Fitto c'è una condanna in primo grado. Sì, Berlusconi sì. Sappiamo, eccetera. Il 18 per quanto hanno preso il 18,5. Chi? No, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 poi hanno votato, hanno dato il 4,5% Alfano eccetera, che è partito quasi esclusivamente di avvisati di garanzia, insomma, diciamo. NCD, come no, condannati, avvisi di garanzia eccetera, appunto, insomma, voglio dire, non scherziamo, l'italiano non vota secondo le categorie che gli impongono i pubblici ministeri, però naturalmente up to a point, entro certi limiti, se tu sei impedito fisicamente, psicologicamente, cioè, è ovvio che paghi un pegno, no? Senti, ma quanto sei diventato renziano nelle ultime cioè Renzi è il nuovo Berlusconi, questa è la domanda. No, io sono, in quanto berlusconiano, penso che Renzi è un'uscita dal berlusconismo, diciamo, da quello che abbiamo visto in questi vent'anni, eccetera, egregia per il paese, perché uno che ha imparato molto da Berlusconi, ha rottamato tutti i nemici storici e classici di Berlusconi, ha ucciso un certo modo di concepire la politica, fa le cose con velocità, con mitezza e senza giustizialismi, è odiato da Travaglio, è odiato da Grillo, lo chiamano Lebedino, dicono che e quindi è perfetto, insomma. Ho capito, perfetto, questo è il motivo per cui la gente non ha votato Berlusconi, cioè chi ha visto in Grillo una paura, eccetera. Ho capito, ma Berlusconi deve ovviamente rendere ragione a se stesso e agli altri del fatto che per 20 anni è stato il dominatore dell'immaginario degli italiani. Perché Parenzo è assente stasera? Dove sta? Tu lo sai Parenzo che per niente. Mi teme. Lo sai che a Parigi è andato a intervistare pure Toni Negri oggi, sì, capito? L'ho fatto anch'io per Panorama. Mi ricordo che andai da lui, ma guarda che se torni in Italia ti arresto. Ho detto no, guarda, entro agosto c'è la grazia per Sofri, Bonpresi, Pietro Stefani, c'è tutto, e io rientro, è finito, c'è la arrestato subito. Oggi ha detto, oggi il professor Negri, che mi ha ricevuto in questa casa bellissima, no? Amico tuo, che schifo, amico tuo di Ferrara. Sopra Montparnasse. Certo, questa casa meravigliosa. Amico tuo e di Ferrara, vergogna, cattivi maestri. No, ma che amico mio, non è affatto amico mio nemico storico, però sono da intervistare, io sono un giornalista, io sono uno come te. Vabbè, ma un po' ti piace. Che viene salotto. No, per niente, sono contrario anche a domani ascolteremo alcuni pezzi dell'intervista in cui il professor Negri ha detto ha vinto lo Stato Nazione. Marine Le Pen è lo Stato Nazione. Ma quale Le Pen? Ma quale Stato Nazione? Ma che scemenze, ha vinto, sarà il presidente della Commissione Juncker, l'uomo delle banche del Lussemburgo. Esatto, l'establishment europeo si è confermato, la Merkel, diciamo, ha confermato la sua capacità, il suo bacino, diciamo così, elettorale. Vabbè, un'ultima cosa, Giuliano, poi ti lascio. Senti, a parte le elezioni, volevo un tuo sobrio commento su questo viaggio in America di un senatore del Partito Democratico che si chiama Lo Giudice, il quale con un utero in affitto ha preso un figlio attraverso il seme del suo compagno e adesso è in attesa di un riconoscimento in Italia. Il senatore Lo Giudice, cosa ne pensi? È vita privata, io sono contrario ai processi alle vite private, sai che sono contrarissimo a tutte queste pratiche, sono come Nanni Moretti, cioè? e quando gliele raccontano nella stanza del figlio, lui fa dire a Silvio Orlando, no, non me le raccontate proprio queste cose, sono due lesbiche sedute dietro in macchina che spiegano come faranno ad avere un figlio, perché non le capisco, fa Silvio Orlando. Ciao. Io sono la stessa cosa, non le capisco. Ciao, ciao, a presto, ciao. Ah sì, ciao. Zanzare. Oh, Grillo sta ancora contando i voti su internet, perché non ci crede che ha perso nelle urne. Ma ancora una volta sono qui, abbiamo vinto. Ma ora, ormai, si vota con l'eolico, anche in Germania. Ma come si vota con l'eolico? La gente vota con l'eolico, dai, fa su un click e automaticamente arriva, non serve neanche il Viminale, i voti sono tutti là, 40%. Oh, comunque Giuliano Ferrara è stato durissimo, con Grillo, soprattutto con gli elettori di Grillo, dicendo che sono degli imbecilli, così ha detto. Domenico da Napoli non riceverà, come dire, carezze, no? Non riceverà carezze dagli amici dei 5 Stelle, Domenico da Napoli. Domenico! Pronto? Andiamo, forza, abbassi la radio, altrimenti intervengo io di forza. Il popolo italiano è così addormentato e stupido che non lo so come si fa a votare una casta politica che ci sta massacrando, ci stanno riempendo di tasse, non sta a fare caffatto sto Renzi. Vabbè, Domenico, però starci, amico mio, bisogna starci. Io certamente non salirò mai sul carro del Duce. Guardi, il potere non mi avrà mai, i governanti non mi avranno mai, non salirò mai sul carro del vincitore, perché penso che il ruolo debba essere un altro. Ovviamente poi uno apprezza quando pensa che un governo faccia bene, eccetera. Però ci devi stare, amico mio, non è che puoi dire gli italiani votano sempre gli stessi. Ma se questo ha preso il 40%, ha preso il 40%. Signor Cruciani, cioè, il fatto è questo, qua la situazione, specialmente qua a Napoli, non è tragica, è proprio disastrosa, è fra un paio d'anni, la crisi qua ancora non è cominciata, la crisi comincerà fra un paio d'anni, quando stanno chiudendo tutte le attività, uno dietro all'altro, piccole, grosse, medie. Vabbè, Domenico, grazie. Antonio, provincia di Siracusa. Antonio, Antonino, non ne so, provincia di Siracusa. Antonio, buonasera. Vai, vai. No, niente, il mio punto di vista di queste elezioni sono due vincitori. Ovviamente la componente di governo. Uno è Renzi, perché prende il piccolo ceto medio, preoccupato, gli dà 80 euro e vince. Con i suoi ministri che sembrano usciti. Vabbè, poi? Poi? E poi l'altro è il nuovo centrodestra di Alfano, che ha superato il 4,4%. Guardi, secondo me il nuovo centrodestra di Alfano ha preso una botta. Certo, se avesse preso meno del 4% sarebbe stato un disastro totale. Ma ha preso il 4,3% insieme a Casini. È stato eletto Cesa al Parlamento Europeo, cioè non un uomo di oltre altri due. Vabbè, però. Ma ho capito, ma di che parliamo? Del 4,3%? Ragazzi, c'è qualcuno che pensava potesse prendere il 6, il 7, l'8 addirittura. Fausto, dai. Ma un partito nato da poco. Ma dai, su, ma che c'entra nato da poco? Ai comunali, va bene, Enzo da Roma. Enzo da Roma, vai. Ciao Cruciani. Io sono un imbecille che ha votato Grillo. Ma lei è incazzato per quello che ha detto Ferrara? Ma no, Ferrara no, è un po' una banderuola. Comunque, volevo dire una cosa, noi non teniamo in conto un aspetto importante di queste votazioni. Cioè quale? Non l'ho sentito da nessuno. Gli exit poll danno un risultato del 32% al PD. Sì. E del 27% al... Vabbè, gli exit poll hanno fatto delle forchette che poi, come al solito, sono state sballate. Dunque? E non è possibile un discostamento. Ma come non è possibile? Quelli sono exit poll, non sono dati reali, sono appunto exit poll. E di solito, a meno, ultimamente sbagliano e di parecchio. Qualcuno si pone anche la domanda, ma ancora le televisioni, eccetera, pagano? Sì, perché pagano? Spieghiamolo, Parenzo. Pagano per lo show. Pagano perché così, siccome i risultati veri, cioè le proiezioni... Arrivano tardi. Arrivano tardi. Si fa lo show. Perché non c'è la rete... Allora si fa lo show e si fanno gli esiti. Comunque il commento più bello ora lo dà il professor, non so se l'hai visto su internet, Claudio Borghi, sì, che era il professore candidato con la Lega Nord, il quale ha scritto: il prossimo che mi telefona per farmi le congratulazioni lo mando a fanculo. Ma ha ragione, quando uno ha perso, lui lo ammette tranquillamente. Qualcuno vuole addirittura, qualcuno gli ha detto: speriamo che Borghezio si dimetta, perché lui è il terzo nella circoscrizione centro. Ha detto: ma scusa, ma Borghezio ha preso i voti, perché si dovrebbe dimettere per farmi entrare al Parlamento Europeo? Enzo, allora? Non c'è più. Francesco da Napoli, anzi Fausto da Treviso, dai. Sì, buonasera. Fausto, buonasera. Vai. Niente, volevo dire al signor Ferrara, perché a questo punto qua lo chiamo signore, è già un complimento, che deve avere rispetto delle persone, degli italiani, perché uno può esprimere il proprio voto indipendentemente dai colori politici. Siccome ne ha i coglioni pieni di quest'Italia e di gente come Ferrara, questo tempo, che si preoccupino più che altro del 42% della gente che non ha votato in questo paese che si chiama democratico, che non ha niente di democratico. E con questo chiudo, e visto che... Non ha niente di democratico? Un cazzo, scusi, glielo dico. Cioè, ha tutto di democratico. Quando si vota e si esprime il proprio, come dire, il proprio parere, la propria preferenza, c'è tutto di democratico. Per cui, che cos'è che non c'è di democratico? Poi no, ci sono le lobby, i poteri forti, quello che volete. Allora. Manca la meritocrazia. Ho capito, ma quando si va a votare è il più grande esercizio di democrazia. Dunque, non rompe i coglioni con queste cose, con queste dietrologie. Fausto. Ah, con queste dietrologie. Ma allora, quando una persona che si chiama Ferrari viene a dire queste cose con la gente che esprime con democrazia un voto, io penso al 42% di persone che non ha votato, penso che quella sia la grande sconfitta, non la grande vittoria. Ho capito, Ferrara può aver sbagliato a dire che sono dei poveracci quelli che votano Grillo e sono degli imbecilli, certo non l'ho detto io, è il suo parere, punto. Sì, arrivato a un certo punto, tanta gente ha votato Grillo perché, come quella a Napoli ha detto che là c'è la crisi, che venga anche qua nel Trevigiano a vedere quante aziende chiudono e quanta gente ormai ha la fame. Va bene, va bene, va bene. Servi di Roma fuori! senza dubbi neri pensamenti. Uno dei trionfatori, Salvini, la scommessa con Parenzo. Beh, so cazzi adesso, Parenzo, sono cazzi, ti dovrei... Però era, rispetterò e onorerò la scommessa. Ma vogliamo ricapitolare? Da dove parte questa roba qui? C'è la grande scommessa della Zanzara tra Matteo Salvini, segretario della Lega, uno dei trionfatori, diciamolo chiaramente, di queste elezioni, perché la Lega era in mezzo alla merda e ha recuperato dal nulla, era un partito morto. Salvini, in maniera anche molto furba, perché ha fatto dimenticare completamente quello che c'era prima, l'ha portata al 6, una cosa impensabile prima. Ha scommesso con Parenzo in diretta uno degli ultimi giorni di campagna elettorale. Sopra il 6? Parti a piedi da Viale Monterose e vieni a Pontida sul Sacro Prato. No, io che c'entro? Parenzo che deve fare, io non c'entro niente. Parenzo. Firma sopra il 6. Come faccio? Se sei così sicuro, firma, firma. Vabbè, un po' in macchina e un po' a piedi. Va bene, un po' in macchina, va comunque bene, a piedi. Ma vengo senza scorta, a mani nude, a mani nude, senza scorta con i miei amici immigrati. Siamo mica violenti, siamo mica violenti con i tuoi amici dei centri sociali o la Fornero. No, no, no. Padania bella e libera. Guardava. Ma è con noi, io non la chiamerei una sconfitta, non la chiamerei una sconfitta perché ha preso 30.000 voti, 30.000 voti, signori miei. Certo, non è più al Parlamento Europeo, questo, di questo bisogna prendere atto. Iva, cara Iva Zanicchi, come stai? Ciao, allora 30.408 voti, non mi togliere neanche gli 8. No, scusami, 30.408. Voti. Ragazzi, ma per una, adesso c'è la pubblicità che Iva conosce bene. Ora, io dico una cosa, per una che... gliel' hanno fatte di tutti i colori campagna elettorale, adesso ne parleremo. Una che era da sola, solo col proprio nome, che si chiama Zanicchi, appoggiata da nessuno, e gli hanno detto di tutti i colori: ah, ma al Parlamento Europeo c'è la Zanicchi, tutti un po' snob, no? Da lontano c'è la Zanicchi, eccetera. Dai media, per carità, poi chiamate, eccetera. Ma io dico che è un miracolo: 30.000 voti, 30.000 voti. Ne parliamo tra un attimo. La Zanzara vive e lotta insieme a voi. Ma vaffanculo, te, tu. La Zanzara. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Lo sai, David, oggi mi piacerebbe commentare un'altra notizia che mi ha fatto veramente incazzare, però più tardi, perché siamo ancora in serata elezioni. Siamo ancora cosa, in serata... Le penne? No, più tardi. Siamo con Iva Zanicchi. Quanto, come dire, diciamo la verità, sei un po' più rilassata, Iva, sì? Guarda, sono distesa sul divano. Oh! Sono serena. Serena, senso, non felice. Aspetta, para, avvicina più la, avvicina, ecco, è brava, ecco. No, sai che io dico sempre quello che penso. Però sono serena, anche contenta, perché ho fatto una campagna elettorale, sì? Davvero in mezzo alla gente. Dice, beh, allora. E mi è sembrato un po' il cantagiro della politica. Perché, ma davvero, giuro. Però non ti ha appoggiato nessuno. Amore, diciamo. Guarda, ti giuro. Non ti ha appoggiato nessuno, però del partito non ti ha appoggiato nessuno. Ma lascia perdere, io lo sapevo già dall'inizio che era così. Ma come mai? Chi hanno preferito? No, mi ha detto, ma tu sei Iva Zanicchi, fai la cantante, sei conosciuta, vai. Chi te l'ha detto? Io sono andata, il presidente, anche perché, no? Guarda, io faccio, tu lo sai, tutto questo solo per Berlusconi, solo, unicamente per lui. Voi lo sapete, perché tutto il resto, proprio... non dico di ogni erba un fascio, non te ne frega, però non me ne frega quasi niente, non diciamo te ne frega niente. No, me ne frega, per esempio, sono contentissima che Totti è certo che doveva passare, che discorsi. Sì, però le indicazioni qual erano? Diciamo la verità, Iva, le indicazioni qual erano? Erano quelle di votare Totti e Ronzulli, giusto o no? No, sì. anche la Comi un po', mi pare, no? Totti, Ronzulli, Comi, dici tu. Ecco, io sono contenta, mi dispiace per la Ronzulli, non ce l'ha fatta, ma sono contentissima per la Comi, perché è una ragazza giovane, carina, preparata, voi la conoscete benissimo, meglio di me, e sono voti. Sicura che lei farà una grande carriera in politica, perché è determinata, potrebbe essere, ed è giovane, potrebbe io essere... sono vecchia. Potrebbe essere l'erede di Silvio, la signora Comi, altro che Marina Berlusconi, o no? Vabbè, adesso non... Beh, scusa, meglio lei di Marina Berlusconi. Della Lara Comi. No, non sono innamorato. Non sono innamorato. Tempo di crescere. Però meglio lei di Marina Berlusconi al momento. No. Ma come? Io ho detto sempre, non mi far dire cose. Io ho detto che parte il fatto che non conosco benissimo la signora Marina Berlusconi, però per quello che ne so io è una donna sensibile, buona. Vabbè, ma sensibile che ce facciamo? Molto brava nel suo lavoro. Ma che e ce facciamo? Un pochino Berlusconi. Ho sempre detto che non vorrà mai e poi mai coinvolgere i suoi figli in questo schifo di politica. Ma schifo? Perché schifo? Ma perché sì, perché una lotta all'ultimo coltello, ma poi non si capisce più niente, tutto contro tutti, è un macello. Adesso guarda lì sto Renzi, 40%, alleluia, brava. Beh, gente. Però ti piace Renzi a te Renzi? Depressi, ma non avete capito che quel 40%, il 7-8% è nostro, che gliel'abbiamo regalato noi. Addirittura. Ho capito, ma quello è stato bravo a prenderselo, sono 7-8%, scusami. Ma certo che è bravo a prenderselo, ma non sono mica comunisti, né quelli lì che sono arrivati al 40%. Ma perché Renzi è comunista? Oh, quelli lì è gente che si è spaventata, ha avuto paura di Grillo. Allora, oddio, in questo momento rafforziamo il signor Renzi, che è bravissimo, grande comunicatore. Dai, ma salta anche tu sul carro. Salta anche tu sul carro di Renzi, dai. Salta anche tu. Salta anche tu. Guarda che io non sono mai saltata di qua di là, io sono una fedele. Parenzo, che c'è? Fedele adesso. No, voglio dire, la signora Zanini. Non ti sento, parla più forte. Ma che ti fregava di tornare all'Europarlamento a te? Dai, su. Sai che io sono una testarda, sai cosa mi fregava? Ma ti sei tolta un peso. Ti volevo prendere qualche soddisfazione, perché mi hanno sbattuto in Africa, mi hanno dato una commissione che era straordinaria, ma che insomma qui in Italia non gli fregava niente a nessuno. Ho detto, se riesco a tornare in Parlamento, ho capito bene come funzionano le cose, voglio farmi sentire, e invece giustamente mi lasciano a casa, meglio. Vabbè, adesso voterai Renzi, guarda, vedrai. Sì, voterai. Adesso quando lasciatemi passare tutto questo. Non è rabbia, vedi come sono io? Perché nella vita, signora, alla mia età bisogna anche saper perdere. Bisogna com'è che fa? Com'è che fa? Bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere. E va bene. Beh, bellissima questa. Bisogna saper perdere. Senti se sono intonato, Iva. Tu che sei puoi giudicare. Bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere. Ma tu hai cantato in passato, io mi ricordo Cappellone con la chitarra e con le banane che su un certo posto andavi a cantare, io me lo bisogna ricordo, saper quindi... perdere, non sempre si può vincere. Com'è che fa, Iva? Com'è che fa? No, ti ho detto una cosa tremenda ma non l'hai captata. Meglio no, così. quale? Cioè? Cappellone, che cos'è Cappellone? No, mi ricordo di te. Quando? Guarda, è una cosa un po' volgare, ma è vera, quando la verità non è mai volgare. Dimmi. Avevi i capelli lunghissimi, la chitarra a tracollo, cantavi quella canzone lì e ti mettevi delle banane, non si può dire dove. Ma veramente stai dicendo? Dove mettevo queste banane? Carino, ma io ti ho visto, sai. Ma dove mai visto? Con le banane. Tu e il povero Little Tony facevate quelle robe lì. Ma che schifo. Eppure è così, amore. Senti, ma ti senti trombata? Io mi sento un po' trombata, in effetti. Un po' trombata, sì. Però sono anche felice perché il mio motto è, te l'ho già detto mille volte, e dagliela. Allora, i corvi volano a schiere. Però e l'aquila vola da sola. Purtroppo trombata in un altro modo. Purtroppo trombata, diciamo. No, trombata là in un altro modo e niente da fare. Ma Iva, per ora lo devi dire. Giuseppe, dimmi. Ricordati che io comunque sono una coerente. Ma io ti adoro, guarda. Io amo Berlusconi. Io ti adoro. E finché c'è lui... Viva Berlusconi. Io ti adoro. Guarda, anch'io non posso. Io ti amo. Non posso... Amo anche quell'altro lì che fa finta di essere cattivo, invece è buono. Che è c'è? Parenzo, devi vergognarti perché tu più volte mi hai detto in privato. Adesso voglio. Ma questo Europarlamento con Iva Zanicchi è veramente una cosa vergognosa. Ma lo rivendico. Ah, lo vedi che è vero? Ma non ti credo, sciocco. Ti giuro, l'ha detto. Ma io l'ho detto anche a te. Ho detto, guarda, secondo me è un talento. Tu devi tornare a cantare. Questo, ok, il prezzo è giusto. Dopodiché, lì bisogna fare il trattato di Lisbona, bisogna fare dell'altro, cioè anche tutti questi personaggi, lei è straordinaria, è un amore. Ma perché tu pensi che Iva Zanicchi cantante non può fare i trattati di Lisbona, non può andare in giro, non può lottare per la povera gente, per chi ha bisogno, e che ci devi mandare soltanto i laureati alla Bocconi che stanno sempre in bocca da Bocconi? Brava, non mi fare incazzare che adesso se ero così brava serena. Brava, hai ragione. Ascolta, tu amore. È l'idea snob della politica di Parenzo. Ma certo. L'idea... E poi porco cane, hai ragione. Vedi, io sono una scheggia impazzita, perché io starei bene non lo so dove. Forse dove? Proprio a sinistra, come dici te. Ma sai che, scusa, se io ero a sinistra, sì. Io e sono un'icona. Brava. E invece qua sono una stronza. Brava. Ha ragione la Zanicchi. Se era a sinistra, era diventato il simbolo di quelli che di quella la cantante, no, che appoggia del la sinistra che popolare. Va incontro alla gente. Invece che siccome è berlusconiana è una stronza, l'ha detto lei. Ma non è così, tutt'altro. Il Partito Comunista candidò in Parlamento, ad esempio, a un certo punto anche lui cantanti, cose. Gino Paoli, ad esempio, a un certo punto. Ma Gino Paoli è che cos'è Gino Paoli? Dillo tu. Dillo tu, Iva, fammelo dire. Ma Gino Paoli è un grandissimo cantautore, il più grande cantautore, ma è un gatto sornione che dalla politica non gliene frega un ben amato tubo. Lui pensa a scrivere divinamente e ha ragione, lui è un guru, sta lì a Genova, che cacchio. Ma no, ma io ad esempio comunque adesso... non si sente trombata, questo è importante, non si sente trombata. No, non tanto trombata. Beh, un po' sì, un po' trombata sì, dai. Un po' sì, un po'. Vabbè, allora mi sento trombata. No, ti hanno... o non mi sento trombata. Ti hanno un po' ascolta, trombato. Cosa vuoi che mi ha? No, allora, ma chi ti ha trombato? Chi ti ha trombato? Allora Toti è giustissimo, Toti, giusto... Comi? La Comi, tu sai che amo la Comi, ho sempre parlato. Vabbè, poi la vabbè, poi c'è quello lì, Cirio, farà la conserva, che cazzo so chi è? Non so neanche chi è quello lì. Uno di Torino, non so. È uno di Torino che mi ha remato contro però, e lui sì, perché lui andava a fare i comizi e diceva "non votate la cantante". Io l'ho chiamato e dico, ma che stai a dire? Ah, ma non mi riferivo mica a te. No, ma a che cacchio? Ma di cantanti ci sono solo io, cosa vai a dire, Giro? No, no, mi riferivo alla Ronzulli. Ma vaffanculo, va! Comunque io mi facevi dire cose che non comunque, dovevo dire. Obiettivo... Mi dispiace, a questo punto, dimmi. Mi dispiace che Iva non sia a Strasburgo, perché ha solo pensiero che invece lì dentro può varcare la soglia di quell'istituzione un signore di nome Buona Anno? Ecco, beh, guarda. No, che cosa hai contro Buonanno? Cos'hai contro Buonanno? Tutto! Dillo, è una vergogna, dillo che è una vergogna. Ma è una vergogna. Ma che è un genio, Buonanno è un genio, ha preso 26.000 voti, è un genio. E allora io che l'ho preso 30.000 cosa sono? Vabbè, quello per la Lega. Quello per la Lega, Iva, però, per la Lega ha preso 26. La Lega ha preso meno voti. Ma vogliamoci bene, pace bene, ma chi se ne frega? Ma senti, però secondo me tu dovresti avere un obiettivo a questo punto. Sì. Lo sai qual è? Sì. Febbraio 2015, che c'è? Cosa faccio? Che c'è febbraio di solito? Febbraio 2015. Farò un grande concerto. No, vabbè, la musica, d'accordo, voglio tornare a cantare, quello lo fai sempre. Ci saranno le elezioni? No, a febbraio che c'è? C'è un festival di solito, no? C'è a Sanremo? Secondo te mi vogliono a Sanremo? Però dimmelo, punto a Sanremo 2015. Amore, ma no, lasciamo perdere. Perché no? Perché no? Ma Santa Maria, Madre Dio, io chiudo così. Santa Maria, Mater Deo, pro nobis peccatori, sin catenori mortis nostri. Amen. Perché? Ho visto il Papa e mi sono commossa. Bisogna essere buoni, bisogna non odiare, andiamo incontro Sanremo alla gente, 2015. Votate dove cazzo volete, ma votate, non sono manco andati a votare. Il 50% è rimasto a casa. E sai chi è che è rimasto a casa? Chi? Quelli che votano centrodestra, perché sono dei vigliacchi, perché gente che non ha nessun amor proprio, non ha senso civico. A sinistra ci vanno a votare. No. Noi no, se c'è il sole non ci andiamo, se è domenica andiamo in vacanza. Questo è vero, questo è vero. Che allora state a casa, molti di quelli che votavano Forza Italia hanno votato il Partito Democratico, capito? Non è che sono rimasto lo so. Se ti dico che il 7%, il 6%, quello che è, di quei 40% che ha preso, ma è nostro! Senti, ma... ma se avete candidato della gente impossibile, hanno detto rimaniamo a casa, scusami. No, lì l'hanno fatto per paura di Grillo, perché ha detto, oddio, tutti dicevano... Arriva il pazzo. E lui ha detto che le cose sono proponibili. Anche Grillo poteva star zitto senza dire tutte quelle stronzate che ha detto. Beh, alla fine hai avuto paura anche tu, il pazzo di Grillo che arriva. No, io non ho... Ma io l'ho pure neanche del diavolo. Io posso aver paura per i miei figli, per i giovani, per i ragazzi, per lasciargli un mondo migliore, ma la prossima pazzia che fai qual è? Te la dirò, adesso la sto preparando. Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere. Ciao, aspetta, eccola qua. Non sempre si può vincere, ed allora Ma qual è questa storia delle banane? Quando è che mi hai visto con la banana? Ti ho visto e me l'hanno riferito, ho detto sì. Ma chi? Ma io non ho mai messo una banana nel sedere, ma sei impazzito, ma ti pare che mi metto una banana? Ma cosa dici? Tu hai fatto intendere. Ma no, ho detto che avevi. Ti sei messo delle banane. No, ma scusa, lo sai benissimo, non fare il furbo. Ma dove ho messo delle banane? Le hai messe in tasca davanti. In tasca delle banane? Sì. Per far sembrare più. Dici? Sì, carino, ti ho visto proprio così. Ma quando? Avevi un gran pacco. Tu mi sa che hai le traveggole, perché mi sa che da quel punto di vista non ti trovo. Ma non posso credere. Fammi stare zitto. Non posso credere che tu sia. Saresti un mostro. Ma che ne sai, magari è vero. Amore, che... guarda, mai tirato su una letta che ero così triste. Lo so. Bisogna saper perdere. È vero, me lo dico da tutto il giorno. Non sempre guarda, si può vincere. L'unica cosa che è felice in questa casa è mia figlia, mio genero, i miei nipoti, i miei fratelli. Proprio sono incosciente. Oh, Buonanno è diventato sindaco. Pure a Varallo, non so dove, è diventato anche sindaco. No. Ha battuto il PD. Buonanno, quello della Lega, non lo sai, non lo conosci. Là, dalle parti sue. Alleluia. No, io tengo per chi? Il sindaco di Pavia. Ah, Cattaneo, vabbè, quello del Cattaneo di Forza Italia. Vabbè. Guarda, è una persona, io lo saluto. Guarda. Scusa, ma chi può essere il successore di Berlusconi? Chi può essere? Guarda che Cattaneo a me piace tanto. Sì, può essere. Lasciamolo crescere un po'. Tesoro, ti abbraccio. Ciao. Oh, vogliatemi bene. Ciao. Oh, non ci perdiamo di vista, Ciao. No, assolutamente. Ciao. Un bacio. Ciao. Bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere. Va bene. La Zanzara. Con le manette strette, polsi in mezzo a ladri ed assassini. Lo portavano via. Lungo i viali di Milano, i mitra pronti di 100 agenti di polizia. E ben pensanti. No, è un dato di fatto che l'agibilità di Berlusconi non è stata quella di altre volte, dopodiché non sappiamo, io perlomeno non sono in grado di valutare quanto abbia pesato questo fatto. Rilevo invece che Berlusconi, forse per lo stato d'animo che aveva, non ha dato il meglio di sé, forse anche stanco, forse è arrivato il momento, che so io, di abbandonare, di trovare qualcun altro. Ma dove andremo a finire? Io, andando in giro, trovo una vicinanza, un entusiasmo superiore a quello che ho mai trovato negli anni passati. Quindi spero proprio che ne avremo delle sorprese con i risultati del voto. Strada perduta, conosce il tuo amore, oh Maria Maddalena. Un destino cattivo mi porta. Nicola dalla provincia di Varese, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo chiedere a lei, a Parenzo, cosa ne pensano dei 5 milioni di voti al Movimento 5 Stelle per un partito che comunque è debuttante alle europee. Sì, debuttante non c'entra nulla alle europee. Ma che vuol dire debuttante? Non c'entra assolutamente nulla, Nicola. Diciamo la verità, il Movimento 5 Stelle ha perso, ha preso una botta. Su, il Movimento 5 Stelle ha perso 2.884.350 elettori. Sì, ma lasciamo perdere quanti voti ha preso. Ha perso il 20%. Sì, va benissimo, ha preso il 21%, infatti, per carità, ma è il secondo partito in Italia, ma nessuno dice niente. Detto questo, non è che cioè esistono delle valutazioni delle elezioni che prescindono dal fatto alla prima prova politica, eccetera, questo eccetera. Il Movimento 5 Stelle ha perso. Grillo voleva superare Renzi, voleva raggiungere, avvicinarsi, ha preso 20 punti di distanza. La sconfitta è chiara, evidente, ma di che parliamo, ragazzi? Su, cioè, non si può negare la realtà. Gli italiani hanno avuto paura di Grillo. Ho capito. È chiaro, gli italiani hanno avuto paura di Grillo. Non hanno creduto a una parola di tutta questa dell'eolico, le cose, la stampante in 3D. pietra tombale su quella roba. È un movimento di opinione, ha fatto il suo corso. Vabbè, questo non lo sappiamo, ha fatto il suo corso, non lo sappiamo. Ha scosso la politica italiana. Calma. Ha scosso la politica italiana, ha fatto anche delle grandi cose positive, sono molto simpatici questi giovani deputati. Fine, grazie moltissime. Fine della storia. Aspetta, grazie Filippo moltissime. Filippo da Genova, aspetta. Grazie moltissime. Filippo da Genova. Grazie moltissime. Vogliamo fare politica. Grazie molte, grazie dell'eolico, grazie delle stampanti 3D, grazie del fatto che si possono usare le feci per fare energia, grazie. Ora però torniamo a fare un po' di politica, grazie. Filippo da Genova, è impazzito Lorenzo, Filippo. Buonasera, riprendo quello che stavate appena dicendo, va bene, Grillo ha perso, è innegabile, però lui ha alzato troppo l'asticella a questa tornata elettorale. Avrebbe potuto sicuramente avere un altro esito e siamo d'accordo, però si è confermato il secondo partito nazionale e dovrebbe esultare per questo. Non lo può fare perché ha caricato di aspettative sia il movimento che tutto il paese e questi sono i risultati. Allora? Allora, la seconda considerazione che voglio fare è proprio questa, che l'Europa va da una parte e invece il nostro paese va dall'altra, ovvero la stragrande maggioranza degli italiani si è fatta comprare da un uomo simpatico con l'accento toscano. Ma che vuol dire bella. Comprare? Ma queste. Ma perché? Ma perché reagite? Ma perché reagite in questo modo? No. Per quanto lo possa anche stimare. Perché ma cosa ha reagito? Perché ha reagito in questo modo? Quando uno perde. Non fate come quelli di sinistra che quando venivano sconfitti da Berlusconi se la prendevano con gli italiani cattivi, con gli italiani suggestionati dalla televisione, con gli italiani comprati da Berlusconi. Erano tutte puttanate. E sono puttanate anche quando uno perde. Significa che gli italiani non ci hanno creduto abbastanza. Dopodiché c'è ancora il 21%. Io sono convinto, ma me ne dispiaccio anche perché c'è una carica rivoluzionaria che mi piace dentro il movimento di Grillo. Sono convinto che quando un movimento come quello di Grillo non avanza continuamente, il pericolo, diciamo, la possibilità che possa decrescere velocemente è abbastanza alta, caro Filippo, è abbastanza alta. Ma per quanto il voto sia sacro e sia la massima espressione della democrazia, quanti di queste persone che hanno votato per il Partito Democratico... Un attimo, Filippo, fammi divertire un attimo. Ma dici che vai? Annarella? Quella di tua sorella. Ma che è successo? Sono Giuseppe, come non stai? Non sapevo che eri tista. Ma come fai a vedere che ero io? Scusa, che c'hai? È perché ho teso tutte quelle fagiadie. Ah, stavi a sentire la radio, Annare? Dimmi. Ma hai sentito Grillo che botta che ha preso? Berlusconi. Eppure, vabbè, sempre con Berlusconi sei fissata. Parliamo di Grillo innanzitutto, Annare. Sei piada. Perché hai detto che se ne andava invece se ne va? Ma è brava, vedi però Parenzo Annarella? Ma non come vedo su affari sua. Perché? Che gli fai a Grillo? Perché ha quello brutto là con i capelli lunghi, sono tirato pure i capelli. Ho capito, ma quanto sei contenta oggi che il Partito Democratico ha preso? Sono felice, ieri sera mi sono intesa tutto, cominciano a venire i risultati. Come pure queste qua, quelle comunali lassù, tanto andiamo avanti, noi andiamo sempre avanti. Senti una cosa, ma Grillo, ma vabbè, Berlusconi vabbè, ha preso il 16%, Annare. È un bel porazzo, ma quello c'ha il parrucchino, ma ora che se ne va, c'ha 80 anni, ma che sta a fare? Ma che gli serve a star lì? Vabbè, ho capito, quello però insiste, sta lì, pure tu sei vecchia, dovresti capirlo, è anziana. Ma che sono vecchi, me ne sto a fare mia, ieri che era come fa lui, che non faccio che... ha visto quanti in arresto, non sono tutti del partito suo. No, veramente quelli che arrestano di più in questo momento sono quelli di Alfano, cioè Andare. Comunque vabbè, anche Alfano è lui, è la stessa cosa, Vabbè. Quello è Badoglio. Comunque chi ha Badoglio? Ho chiamato Badoglio io. Ma hai votato tu Annarella? Hai votato? Sì, e poi dato il voto a cosa? Quella lì che arriva da prima. Chi eri? A chi hai dato il voto? Poi l'ho dato a Sassuoli. A Sassuoli. È stato cosato, solo Silvia Costa non è stata cosata. No, è eletta pure lei, non ti preoccupare, pure lei. Beh, io a Silvia Costa ci ho voluto sempre bene, perché io l'ho buttata tanti anni fa. Senti un po', Annarella, voglio dire una cosa, ma quanto hai goduto per Grillo, che è stato insomma un po' penalizzato, insomma, ha preso una botta, 20 punti di distanza, quanto hai goduto? Veramente, guarda, io sapevo che vincevo. Sì, vabbè, però 20 punti non lo sapevi, dai. 20 punti sono tanti. Sono tanti. Che hai fatto per festeggiare? Ti sei ubriacato? Ando soltanto, mi hanno affisso bene con la testa se piassi in accidenti. Sto a casa. Ma ti sei ubriacata ieri sera? Che hai fatto? Sì, a casa mia non beve nessuno. Vabbè. Ma come io bevo. Ciao amica mia, ma ciao. Guarda che in questo stavolta, Annarella, chi è che se l'è presa Inde? Chi è che se l'è presa in quel posto? Per cui. Chi è che tutte se l'è? E due, Berlusconi e Billo. Ciao cara, ciao. Ciao amore mio. Attenzione, fermi tutti. Fermi tutti. Amici miei, in questa giornata particolare dove si celebra la sconfitta di Grillo, il trionfo di Renzi, diciamo il risultato negativissimo di Berlusconi, ma mettiamoci pure la vittoria di Salvini, no Parenzo, no? Ad abundandum, no? Come si dice? Ad abundandum. Trionfo di Renzi pure amministrative. Beh, io credo che l'atmosfera in quel del Quirinale. Beh, c'è festa, eh. C'è festa. Non so se io mi sto un attimo dilungando perché come al solito questi collegamenti con il Quirinale già è un anno circa, no, un anno no, ma sono sei mesi che non riusciamo a metterci in collegamento. Sì, mi dicono. Ai brillanti conduttori dell'emissione presidente. Radiofonica La Zanzara. In piedi, presidente. Aspetti che ci mettiamo in piedi, un attimo solo che faccio rumore, eccomi qua in piedi. Eccomi qua, scusi il rumore del microfono. Eccomi qua. Un affettuoso saluto a lei, caro Cruciani, e sì. Al suo sodale Parenzo. Sì. Buonasera, presidente. Come va? Scusi. Quest'oggi, devo dire, è una giornata di gaudio, è una giornata di soddisfazione. Beh, presidente, politica e istituzionale. Ma come soddisfazione? Beh, non dovrebbe dire soddisfazione lei. Però vabbè, se lo dice, per carità. Diciamo che il mio sentimento sì. Non è pessimistico e non è preoccupato, no, oggi certo. Vi è più. No, certo, non c'è dubbio. Senta, volevo chiedere una cosa, ma se non si è sentito il boom, il botto stavolta, non si è non abbiamo percepito alcun boom, sì. Non abbiamo percepito alcun botto, sì. Devo dire che la giornata si è dipanata tra piacevoli momenti, abbiamo visitato questa splendida chiesa dei Cavalieri di Malta sull'Aventino, però, ecco, sì. Quindi non mi sono trattenuto, se no sì. Avrei dovuto arroccarmi sul colle. Ecco presidente, però non esprima troppa soddisfazione, perché se no sembra veramente, no, cioè che uno, lei abbia fatto il tifo, come dire, per la sconfitta di Grillo, diciamo la verità. Diciamo che non arriviamo a questo sbilanciamento istituzionale, però abbiamo seguito con grande attenzione i risultati elettorali così brillantemente, diciamo, snocciolati dai media nella data di ieri e nella lunga giornata di oggi, e devo dire che insomma questo tracollo del comico ci ha... Ma come? Come tracollo, presidente, si sbilancia così, ma sta sbracando completamente. Non ritengo che questo termine sia adeguato alla posizione di un uomo che ha fatto con la sua politica e la sua azione, come tanta gente, tanti giovani che testimoniano nelle piazze. Sì. Io semplicemente devo dire che l'Italia ha salvato un pezzo di Europa. E questo un po' è vero, e questo un po' si può ha dire. Ha mantenuto l'euro come moneta. Senta, come avete festeggiato? Scusi se interrompo, ma anche noi abbiamo i nostri orari. Mangiano. Come avete festeggiato lei e la signora Clio? Ma devo dire che la signora Clio ha festeggiato accendendo due mezzi toscani contemporaneamente. Ma come la signora Clio, due mezzi toscani? Ha fumato, ha anche assaggiato questo nuovo pastrengo. Sigaro per la celebrazione dell'arma dei carabinieri. È un sigaro che ho provato anch'io, il pastrengo. Vabbè, ma come fuma i sigari, la signora? Ma non è possibile. Si dice che fuma i sigari. Ma è passata oramai dai due pacchetti di Marlboro al mezzo toscano, uno dietro l'altro. Ma devo dire che sì, la simpatia della mia signora, che spero prima o poi accetterete di avere. Beh, come diciamo, no. Come ospite. È un onore, presidente, è un onore. Le linee del Quirinale vanno e vengono. Io la ringrazio. Comunque con una Biancolella di Ischia stappata per l'occasione. Biancolella di Ischia, sì. Pepata di cozze imperiale. Sì. Dovuta alla grande opportunità, e devo dire che con la signora Clio abbiamo anche intonato i primi passaggi di O Soldato Innamorato. E poi per Grillo, per la sconfitta di Grillo, questo è altro. Presidente, grazie. Il paese è salvo. Viva l'Italia, viva l'Europa, viva la Repubblica. spettacolare, spettacolare. La Zanzara. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Ho sporcato gli occhiali neri e ho fatto un tiro con un 100 euro arrotolato. È un tiro di cocaina che ho fatto lì al Foglio, nel mio ufficio per festeggiare. Grillo ha preso il malo, sì, ho fatto un bel tiro di cocaina, ma possente. Sa maledetto che ha detto che non si può spruzzare lì di lì. Marco da Roma, buonasera Marco. Buonasera. Dica. Niente, allora noi siamo ostaci, noi che vogliamo un po' di cambiamento con il Movimento 5 Stelle, di due generazioni, una dei vecchi e delle vecchie babbione che votano DS, che votano, scusa, Partito Democratico. Se sì, cioè come Annarella, partito, come Annarella. Come Annarella, sì, che votavano Partito Comunista e sono convinti che adesso votando il Partito Democratico votano il Partito Comunista, non sapendo che stanno votando la Democrazia Cristiana, però siccome di politica non capiscono un cazzo, tutta gente che è andata in pensione con i pensionamenti, che è andata avanti con le case popolari, con le case dell'enti, non hanno mai fatto un mutuo in vita loro, posti statali, sì, si accontentano ancora di averci quello che hanno. E poi siamo ostaci di un'altra generazione, poveracci, sì, che sono i giovani che sono occupati a pippare cocaina dalla mattina alla sera, sì, certo, a farsi le canne, Parenzo, a farsi i tatuaggi. Ma sì, cosa dice? Stai zitto tu, buffone! Ma cosa dice? Sei un buffone! Ma che sei una cosa merda, dice? Sei una merdaccia! Lo so fare anch'io, Grillo, sei una merdaccia! Marco, Marco, non parlate troppo attaccato, non urlate ai microfoni, al telefono, sennò si sente malissimo. Allora, Marco, che cosa è il punto? Qual è il punto? Il punto è che noi siamo ostaggi di questo popolino, di questa gente qua, sì, che non vuole il cambiamento. In tutta Europa le forze governative hanno preso una batosta enorme. Beh, ho capito, l'unica, ma... l'unica pecora nera, scusa Cruciani, ma il 42% è una percentuale di un paese che sta bene. Ma invece qui sta il 50% della disoccupazione giovanile, il 15% della disoccupazione totale, il PIL è in calo, le fabbriche chiudono. Dimmi come cazzo fa un partito di governo a prendere il 40%? Ma in perché evidentemente sta... io sono uno molto perché realista. Hanno fiducia in Renzi. Quando la gente vota, io sono uno realista, evidentemente questo 40% che ha votato Renzi non è che l'ha votato per le elezioni europee, diciamo la verità. La gente ha votato Renzi, questo certo, 40%, perché ha fiducia in Renzi. Dopodiché, ma... attenzione che il consenso come arriva al 40%? Non è una cambiale in bianco. E come . Insegna Berlusconi che fino a quella Pasqua di Onna, a quella Pasqua di Onna nel 2009 sembrava imbattibile, sembrava, no? Ma certo. Lì il consenso come arriva si può squagliare. Ma non in un è secondo. Mai una cambiale in bianco il consenso. Dopodiché, ragazzi, no, non è che la conservazione, come dice Grillo, i pensionati stanno da una parte e il sol dell'avvenire sta con lui. Calmi, non è così. Capito, Marco? No, non è così, perché allora in Francia che stanno meglio di noi, cioè uno, tra virgolette, meno bisogno di cambiamento di noi, cioè hanno avuto le palle di votare la Le Pen. In Spagna, ho capito, ma non è che chi non ha votato la Le Pen è un povero stronzo, scusa Marco. Io mi sento ostaggio di questi qua, che te posso fare? Sbaglierò, non sbaglierò, io mi sento ostaggio di questi qua, perché... Ma chi era la babbiona, scusa, chi era la babbiona? Annarella. Annarella, babbiona, che vuoi fare? Parenzo, purtroppo... intervieni tu, Parenzo, per favore, intervieni. No, ma che cosa vuoi dire? Ma è chiaro, quando lui dice che in Francia hanno avuto il coraggio di votare quella signora erede di quel partito, di quel fascista, del signor Le Pen, è evidente a che cosa punta, qual è la sua analisi di voto. Esageri, che adesso non si può votare per Le Pen, la Le Pen, non ma è... certo che c'è lo spauracchio della Le Pen. Ma cioè certo tu, che dai, si può votare. Io voglio dire a questo signore 5 Stelle, che ormai è una stella sola, ma gli voglio dire che il consenso a Renzi non è una cambiale in bianco. Siete non una è stella, che detto... Marco, una stella, ha detto Parenzo, una ma stella. Ma sì, una stella, certo. Marco... Sono loro peggio, non abbiamo ancora molta di strada a fare, caro Parenzo. Tanto ma certo, più ma infatti hai ragione, infatti non è una cambiale in bianco per cui Renzi può fare quello che gli pare. Il consenso va e viene, perché per fortuna in democrazia funziona così, non siamo più per cui ci sono quelli che votano per i comunisti, per la Democrazia Cristiana, l'elettorato è molto più mobile e quindi la gente vota in base al momento, quindi stai sereno, stai tranquillo, torna pure dal tuo amico Beppe, costruisciti una pala eolica, produci la tua energia usando lo scarico del cesso, fai quello che ti pare, per ora è andata così. così, amico mio. Ma però ritorna è così. Tu nei tuoi salottini radica chic a mangiare il caviale, a bere lo champagne. Ma quale caviale? Delle fabbriche. Guarda che ieri lo champagne lo beveva la tua amica Le Pen ieri. Lo champagne lo beveva la signora Le Pen ieri. No, altro lo bevi che... pure tu che dici che difendi i lavoratori, le fabbriche. La tua amica Le Pen ieri beveva lo champagne, hai capito? In Parigi. Ma vai dalla tua amica della Sette, vai dall'Annunziata, vai da Ricomentana, vai da questi qua che ti rappresentano benissimo. Ma che c'è? Abbiamo fatto un mestiere, oh. Faccio il giornalista, mica il politico come te. L'hanno cacciato via, è rimasta solo la Zanzara e ringrazio a Dio Cruciani che ancora ti fa parlare. Bravo, ti rode oggi, ti rode! Oggi ti rode! Come ti rodeva a febbraio dell'anno scorso quando il Movimento 5 Stelle era il primo partito, hai buttato merda per un anno. Torna nella spelonca. Ma torna nelle fogne insieme a me. Torna nella spelonca, torna. Buffone. Torna nella spelonca. Viva Cruciani che ha votato Movimento 5 Stelle, almeno una volta in vita sua ci ha provato. Te manco quello, manco c'è il coraggio di provarci. Ma almeno Cruciani ci ha provato una volta. Di votare per le stampanti 3D. Eh? Di votare per le stampanti 3D. No, vota tu per quelli che cantano... bella ciao quando ma che ne sai cosa voto io? Ma che ne sai cosa voto io? Hai votato PD, voti PD da sempre. La banca Comunque, Monte Paschi di Siena, la più antica d'Italia. Stai sereno, perché siccome siamo in una democrazia e non una dittatura, se Grillo risulterà convincente alle prossime elezioni, vincerà Grillo, stai tranquillo. Ma non vincerà mai niente, perché stanno quelli come te, come la vecchia babbiona. Stai tranquillo, stai. 1.500 euro al mese così a sbuffo, che magari è prepensionata da 40 anni, che sta in pensione con prepensionamento, come alcuni parenti miei che stanno in pensione da 37 anni dopo 15 anni dei contributi e stanno a rubare lo stipendio, stanno a rubare la pensione. Ecco come sarebbe il Partito Democratico, sarebbe questa gente qua. Il nostro paese nella sua dolce vita, gridando ha strappato la bocca cucita, coi lividi addosso, il volto riflesso in una bandiera un poco sbiadita. L'Italia è di tutti, di chi vuole amarla, di chi è stato male soltanto a guardarla, di chi l'ha umiliata dicendolo giuro, e poi gli ha negato persino il futuro, di un vecchio che è stanco ma in fondo ne è fiero e si commuove pensandola in bianco e nero. L'Italia che... Fabrizio Moro, questa è la sua voce, lui è qui con noi, buonasera. Ciao ragazzi. Ciao Fabrizio, ciao. Come stai? Ciao. Abbastanza bene. Ma c'è la voce come se fosse un po' affranta, che è successo? No, sono stanco perché questi sono stati insomma giorni abbastanza pesanti. Quindi... Come sei? Sei triste, diciamo la verità, sei triste. Sei triste per il risultato? No, dai. Triste no, sono un po' deluso, triste no, triste non sono mai triste, deluso insomma sì, abbastanza. Parenzo, sai chi è Fabrizio Moro, no? Cantante che sul palco l'ultimo giorno prima delle elezioni praticamente ha detto quella parola contestatissima da tutti, schifo l'uomo Giorgio Napolitano, riprendendo un brano di una sua canzone. Spero che ora si penta e chieda scusa almeno. Chiedo scusa per Fabrizio, rispondi a Parenzo? Chiedi scusa almeno. Ma assolutamente no, assolutamente no. Ma perché uno dovrebbe chiedere scusa? Scusa? Perché c'è una questione di rispetto, ma non per soltanto, una doppia questione. Uno di rispetto del capo dello Stato. A parte che non è vero, uno può tranquillamente dire io questa cosa non le sopporto. Se uno dice io schifo l'uomo Giorgio Napolitano, cioè non capisco perché esprime una sua idea, la esprime in maniera forte, la esprime in maniera decisa, la esprime... ho capito. Allora, le cose ragazzi non vanno estrapolate a metà. Ecco, c'è una storia in tutto questo, ovviamente poi la comunicazione è fatta anche così, Fabrizio, tu lo sai. Ma dai. No, sì, però è stato strumentalizzato soltanto un picco di rabbia, ecco, di quell'esibizione. Però l'hai detta quella cosa lì, dai. Ma cioè... certo, ma infatti ho detto che non mi pento, però ci sono state tante altre cose che ho detto e nessuno le ha riportate. Tipo cosa? Ovviamente poi ci sono stati 5 minuti di applausi quando ho fatto pensa sulla quando è stata ricordata la scorta di Giovanni Falcone, quando abbiamo parlato di Stefano Cucchi, degli omicidi di Stato. Ci sono state una serie di cose che non sono state riportate, c'erano 200.000 persone lì incazzate insieme a me, sì. Comunque ragazzi. No, ho capito, però Fabrizio, sai come funziona la comunicazione, no? Quelle cose lì probabilmente sono cose che l'applauso, la scorta di Falcone. Ma la comunicazione è falsata. La comunicazione no, non in questo caso, scusa, lasciami dire che io difendo la libertà di parola, no, anche quando uno si esprime come te, la difenderò e non sono affatto, come dire, non ho questo atteggiamento che ha Parenzo di no, dire... No, ma io dico di più. Aspetta un attimo, non ho questo atteggiamento che ha Parenzo di dire oddio che schifo, non si può dire una cosa genere. Lui ha una responsabilità enorme. Ma qual è la responsabilità? Non ha una responsabilità enorme perché parla a migliaia di persone. E allora di non può dire, non può dire sì, io schifo Giorgio Napolitano. Se non gli piace il Presidente della Repubblica lo esprime a modo suo. Ha una responsabilità enorme lui, perché i ragazzi, le persone lo ascoltano, ascoltano la sua musica, le sue cose. Appunto per questo lui dice questa cosa qua, esprime il suo parere in maniera, vabbè, Fabrizio rispondi tu. Ragazzi, no, ma non, se dobbiamo scherzare su questo, io non stiamo scherzando. Il vostro programma io non lo conosco, non lo seguo, non lo ascolto. Noi non stiamo scherzando per niente, stiamo parlando molto seriamente. Sono incazzato, vero? Stiamo parlando molto seriamente di questa frase che hai detto, che c'entra? Non, è un discorso molto serio. Volevo sapere, alla luce di quello che è successo, sì, del risultato elettorale, eccetera, eccetera. Sì. Tu hai detto io non mi pento, comunque non mi pento di quello che ho detto sul palco. Ma assolutamente no, la mia stima nei confronti del Presidente c'è stato di vivere, quando? Di esistere, ma da qualche anno a questa parte, da quando insomma ci sono stati una serie di atteggiamenti che hanno... Dimmene alcuni. Ma parliamo sempre, sembra che siamo in un bar poi, no? Parliamo sempre delle stesse cose qui. Beh, in Italia, che poi non... nel 2012 quando ha fatto approvare per esempio la distruzione delle intercettazioni telefoniche con Nicola Mancino che riguardavano la trattativa tra lo Stato e la mafia, ma che... Non è che l'ha fatto approvare lui, cioè non è che lui ha ordinato la distruzione, ma diciamo. Che no, si è messo un po' di traverso, insomma, ha appoggiato un sistema, sì, un sistema che secondo me oggi è marcio, ecco perché mi sono schierato dall'altra parte. No, no, ma perché comunque è legittimo, tutto questo è assolutamente legittimo. Certo, poi io sono un cittadino come un altro e posso sbagliare, insomma. No, ma certo, ma la parola uomo, ecco, quando uno dice io schifo Giorgio Napolitano come politico, io posso capire, ecco, forse l'aggiunta della parola uomo, che cosa volevi dire con quello? Ma devi guardare anche il significato metaforico di questa cosa. Ma quale significato metaforico? Nel senso che è un attacco frontale allo Stato italiano, comunque, a un atteggiamento, a uno Stato che non mi rappresenta più in questo momento. Quando tu dici anche i figli di puttana che hanno distrutto il nostro paese, no? Quando tutti i figli di puttana. Assolutamente. Ma chi sono? Quando uno dice sono i figli di puttana che hanno distrutto il nostro paese, a chi ti riferisci in particolare? Ma devo farti io. Quelli che ti vengono in mente, i primi che ti vengono in mente. Ma non li faccio più perché già mi sono arrivate altre querele. Cioè, mi sono... Ma chi ti ha querelato? Chi ti ha querelato, scusa? Ma chi mi ha querelato? Gli avvocati. No, ma gli avvocati di chi? Di Napolitano? No, assolutamente no. Cioè, c'è sempre qualche vecchietto di Alza da Cresta, ovviamente, che si è sentito finito. Ah, privati, dici te, privati cittadini che dicono non puoi accusare così il capo dello Stato, eccetera. Ma cioè, assolutamente. Qualcuno ti ha querelato per questo. Ma tu schifi anche Renzi? No, assolutamente no. E Berlusconi sì? In realtà non schifo nessuno. Beh, qualcuno, uno sì. Quello è stato un messaggio metaforico, no? Un attacco frontale allo Stato che mi ha deluso in più di una circostanza. Ma quale attacco allo Stato? Beh, un attacco allo Stato, lui l'ha inteso. Ma cosa vuol dire attacco frontale allo Stato? Ma quale attacco? Beh, attacco, ha preso di mira Napolitano come... Sei un bravo cantante, fai il cantante, poi se vuoi fare un ragionamento politico, una cosa, va benissimo, con la passione, d'accordo, ma io schifo Giorgio Napolitano, ho fatto un attacco allo Stato. Ma quale attacco allo Stato, amico mio? Nessun attacco a nessuno Stato, hai fatto. Beh sì, in particolare hai fatto un grazio, una buttata, hai fatto uno sputo, hai sputato, non è che hai fatto, non è che dice la passione civile, dice è uno che ha la passione. Senti, civile. Senti, secondo, secondo te perché ha perso Grillo, Moro? Ma questo non lo so, non te lo so dire. Cioè, perché avete perso? Perché tu sei stato comunque sul palco, sei un militante, come dire, anche se poi non ma è va che... bene quello. Non ci sono. Perché ha perso secondo te? Perché gli italiani sono indietro, perché gli italiani non capiscono, perché? No, perché? Perché c'è stata magari, ecco, la maggior parte della gente non ha condiviso le sue idee. Perché ha perso. Beh, ha perso, per avere perso, ha perso. Cioè, tutti dicono che ha perso. Certo che ha perso. Certo che ha perso. Ha straperso. Ma l'Italia non vuole cambiare, secondo te? Ma l'Italia non vuole cambiare, è un paese restio insomma al cambiamento, ha dimostrato più volte. Ci vorranno più anni, ci vorrà un periodo di tempo più lungo per diciamo. Ma non è che la gente ha avuto paura? Non è che la gente ha avuto paura di Grillo? Anche. Beh, ha avuto paura dei toni, anche il tuo ultimo concerto, ma qui c'è magari sempre, alza. Qui c'è sempre ogni cambiamento, ogni nuovo cambiamento fa paura qui in Italia, no? Ah. È sempre stato così, cioè, ma beh, ti vedo affranto, ti vedo la voce un po' affranta, la voce un po' triste, la voce un po' stanca, ecco. Vabbè. Ti abbraccio, a presto. Ciao. Vabbè, ragazzi, che dobbiamo fare? Parenzo, come attacchi, Dobbiamo tornare in Italia. Come hai attaccato? Ci sentiamo domani quando torni in Italia, dai. Ciao. Ti sei messo delle banane? No, ma scusa, lo sai benissimo, non fare il furbo. Te le sei messe in tasca davanti? Avevi un gran pacco. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io chiudo così. Santa Maria Mater Deo, ora pro nobis peccatoris in catenori mortis nostri. Amen. Radio 24. La passione si sente.